diciamo profondità. Allora il vediamo la cosa drammatica, e speriamo che non sia una tendenza questa, è che in questa settimana, in questi ultimi giorni, in questi 15 giorni sono contati diversi morti in carcere, malore in carcere, questo qui a Benevento, un uomo di 59 anni nel carcere di Benevento è morto, cioè si è sentito male in carcere, portato in ospedale e lì è arrivato morto. Che cosa aveva? Dice, il suo cuore ha cessato di battere. Beh, è chiaro, quando si muore messa abbastanza, è strano che da quanto dice il carcere, la direzione del carcere, non è stata segnalata una, un malessere da parte di questo detenuto, che probabilmente ha accusato un malore anche precedentemente al suo ricovero, e fino a che appunto si è sentito talmente male che è stato portato in ospedale, ma ormai era troppo tardi, e vabbè, quindi è morto in ospedale, quindi non figurerà come nelle statistiche, tristi statistiche, cui non bisogna mai dare troppo retta, perché me l'abbiamo detto più volte, i morti, diciamo, il conteggio, un terribile conteggio delle morti in carcere avviene se la persona è dichiarata morta nel momento in cui stava all'interno della recinzione del carcere. Se una persona, un detenuto o una detenuta si sente male, accusa un forte malessere, chiamano l'autoambulanza, lo porta e monta sull'autoambulanza, nel momento che monta sull'autoambulanza, se anche muore dopo due secondi, risulta morto in ospedale, cioè non più in carcere. Ovviamente però è ovvio il malore e l'assenza di cure, diciamo di sostegno, era avvenuta all'interno del carcere. Poi abbiamo un altro dato, questo qui è un tentato suicidio nel carcere di Cagliari, un ragazzo giovane, questa volta un minorenne, il 15, nella tarda mattinata del 15 ottobre, nel penitenziario per minori di Quartuccio, un detenuto, un ragazzo algerino, ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. Per fortuna i compagni di detenzione sono intervenuti subito, hanno evitato che il peso del corpo completasse lo strangolamento, quindi non è morto. Poi è venuto tutto il resto, l'hanno tirato via e portato in ospedale. Non è morto per fortuna, però appunto un tentato suicidio da parte di un ragazzo di 17 anni è un grosso problema, e probabilmente insomma mette campo al problema, diciamo, della malattia in carcere. Tra l'altro ci stanno, continueremo, che purtroppo non sono finiti i dati delle persone morte in carcere o ammalatesi in carcere, oppure che hanno avuto un malore non curato e quindi che li ha portati al decesso. Il problema è che da alcune ricerche la salute in carcere va via via peggiorando, e questo e non è un problema che si può soltanto ascrivere all'ambiente, cioè alle celle sporche, insalubri, eccetera, perché tanto erano alcuni anni fa, tanto sono adesso, non sono né migliorate e nemmeno peggiorate. Evidentemente c'è qualcosa di più interno, ossia questa assenza maggiore, carenza, difficoltà per il detenuto, per chi sta in carcere, per la detenuta, di vedere la propria situazione in una prospettiva di speranza, cioè di ritrovare dignitosamente la libertà, porta a una crisi di depressione che può portare o al suicidio oppure addirittura far incorrere in malattie forti, per esempio le crisi cardiovascolari. Ce n'è un altro qui, il carcere è quello di Vibo Valentia stavolta, e questo detenuto già era, aveva il cuore malandato, così dice, vuol dire che era un cardiopatico, già segnalato sulla propria cartella clinica come cardiopatico, e stava male da tutti i punti di vista, che camminava a stento appoggiandosi a un bastone, doveva fare ancora un anno di carcere, e più volte ha chiesto tramite il suo avvocato gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare, oppure la sospensione di pena per potersi curare, tutte cose ovviamente previste dalle leggi, ma ha sempre ricevuto un no. e dunque 53 anni aveva, è morto in carcere, nel carcere di Vibo Valentia. Questo è successo venerdì notte. Questo che dire, appunto, c'è poco da dire. Il problema è che il carcere fa male, produce malattie oppure ne aggrava quelle patologie già in corso. E il punto, per questo spesso diciamo che non sono importanti soltanto mettere mano alle questioni di carattere sulla struttura, sul luogo fisico, imbellire le celle, aumentare gli spazi, però poiché per esempio le leggi parlano di queste cose, degli spazi, dell'area per i passeggi, dei servizi necessari, e quindi quando mancano queste cose può scattare la multa, come ha fatto la Corte Europea nei confronti dello Stato italiano, o addirittura il risarcimento nei confronti di quei detenuti che stanno in queste condizioni di carcere malandato, però poi dal punto di vista della distruzione fisica e psichica della persona detenuta, queste cose non sono essenziali. Quello che continua a essere essenziale, lo diciamo mille volte, è la deprivazione sensoriale, cioè l'assenza di contatti, di realtà reali, vere, che ha la persona detenuta. Lei è l'assenza ovviamente di una prospettiva, di un futuro. L'assenza di un futuro crea questa situazione di depressione molto forte che può portare, e in questo caso ha portato, all'aggravarsi di malattie, di patologie preesistenti, oppure addirittura a tentare il suicidio. Oh, Allora, intanto una notizia per coloro che seguono la trasmissione L'Ingorgo sulla situazione appunto del traffico in questa città, che è, sì, trasmissione che c'è subito dopo questa, cioè dalle 16 alle 17. Bene, vi comunichiamo che quest'oggi non potrà andare in onda, quindi per motivi che poi ci racconteranno, quindi quest'oggi non andrà in onda L'Ingorgo e l'appuntamento ovviamente è alla prossima settimana. Dunque, dicevamo che per quanto detto poc'anzi, cioè appunto parlando, analizzando la triste sequela dei morti in carcere o tentati suicidi, oppure appunto morte per malore, malori non curati, no? Malessi non curati, e quindi cercare di capire qual è l'essenza che provoca il malessere in carcere, cioè la situazione di depressione, da che cosa è provocata. È chiaro che vediamo con poco entusiasmo quanto alcuni stanno facendo per migliorare la condizione dei detenuti. Qui abbiamo Franco Corleone, che è il garante toscano della regione toscana per i diritti dei detenuti. Questa figura del garante è più o meno diffusa, non proprio in tutte le regioni, però in parecchie regioni è diffusa, cioè presente questa figura. Il problema è che non c'è ancora una regolamentazione, cioè quali sono i temi, gli argomenti su cui il garante delle persone detenute può intervenire. E allora questi garanti si arrabattano affrontando le questioni minime. Per esempio, appunto, Franco Corleone ci dice che finalmente, dopo tempo, è riuscito a vincere questa battaglia con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, proponendo e riuscendo a ottenere che nelle celle, a posto degli sgabelli, chi è stato in carcere sa questi sgabelletti che molto scomodi ovviamente che stanno nelle celle, sostituiti da sedie, perché dice nella sedia si sta più comodi, c'è lo schienale appunto, mentre invece nello sgabello si sta sempre scomodi. È vero, è verissima questa cosa qui, sostituire sgabelli con delle sedie può portare un piccolo sollievo alla situazione fisica delle persone detenute, ma il problema ci sembra oltre la rimozione della terza branda nelle celle piccole. Però va bene, però appunto sono progetti minimali che sì, d'accordo, è certo che per chi sta in carcere anche una virgola ti porta un sollievo, però quale prospettiva vede la persona detenuta quando coloro che dicono di battersi per gli interessi, per i bisogni delle persone detenute portano avanti questo tipo di, diciamo, di obiettivi minimali, talmente minimali che francamente non è che cambia la condizione di chi è recluso dentro con la sedia oppure con lo sgabello. Comunque, prendiamo per buono questo. Lui dice che è una battaglia vinta, per carità, non vogliamo sputare su niente, però insomma ci sembra che sarebbe importante, anche se non si ottiene subito il risultato, però porre all'ordine del giorno sia alle persone detenute sia a chi sta fuori qual è la devastazione che il carcere porta alle persone detenute, per cominciare a mettere in discussione la presenza del carcere, proprio la sottrazione di libertà per chi ha trasgredito la legge, secondo, diciamo, il codice penale. E interviene anche Mauro Palma, un personaggio importante, sempre stato a fianco dei bisogni, delle necessità delle persone detenute, e dice che lui fa un discorso un po' più ampio, anche qui dice ricostruire i refettori, dove si mangia tutto insieme, che sono stati praticamente aboliti. Una volta c'erano, adesso ognuno mangia nella propria cella da solo oppure con i compagni di cella, e questa cosa degli ampi refettori è stata abolita perché permetteva, se c'è un refettorio, quindi l'ora di pranzo e l'ora di cena si fa in questi grossi cameroni dove ci stanno i tavoli lunghi e delle sedie, insomma, come potete immaginare come sono, però permettevano una maggior socialità tra le persone detenute, cioè nell'ora di pranzo e di cena ci si vedeva tutti insieme, quindi si poteva chiacchierare, eccetera, socializzare qualcosa. E dice che bisognerebbe riprodurre i refettori per favorire appunto la socialità dei detenuti. Tutto, anche questo è giusto, però questa cosa fu abolita perché come potete immaginare, all'ora di pranzo, all'ora di cena, i detenuti devono essere fatti uscire dalle celle, quindi è un lavoro per le guardie, per gli agenti di polizia penitenziaria, per i secondini che devono andare a prendere dalle celle, accompagnarli in questi saloni, metterli lì, chiude il salone, poi e viceversa al ritorno, finita il pranzo, la cena, riportarli in cella. Per loro è un lavoro in più e quindi non volevano questo lavoro. Le guardie penitenziarie stanno sempre a dire che stanno sotto organico, cioè sono meno di quante ne necessiterebbero, però su questo poi i dati però li contraddicono, perché il rapporto tra guardie e detenuti in Italia è il più alto in Europa. Considerate che ci sono 54.000 detenuti, 54.500 circa, e gli organici degli agenti di polizia penitenziaria sono circa 42.000, quindi il rapporto è quasi 1-1, come vedete. In Europa è 1-3, cioè le guardie sono un terzo delle persone detenute. Loro dicono, gli sindacati delle guardie della polizia penitenziaria dice, però non tutti fanno il lavoro in carcere, molti di questi agenti vengono dislocati nei ministeri, oppure a fare gli autisti o a fare altri lavori. Probabilmente è così, però appunto quindi chiedono un rafforzamento degli organici. Ma se dovesse discutere di questa proposta di Mauro Palma, riprodurre, rimettere in piedi i refettori per il pranzo e la cena, è chiaro che i secondini chiederanno un aumento di organico. Poi l'altra cosa che dice Mauro Palma è che il problema è che bisogna riavvicinare la società interna, cioè quella delle persone carcerate, e quella esterna, perché questa separazione molto forte e chiaramente non favorisce appunto un dialogo, una discussione, una conoscenza che è l'unica in grado di permettere di risocializzare la persona detenuta. Questo è un ragionamento giusto, è vero, però è chiaro che cos'è che significa questa cosa qui portata alle estreme conseguenze, significa farne a meno del carcere, trovare altre forme di sanzione, non con la separazione della persona detenuta, che appunto da recludere in un posto separato dalla società, ma trovare sistemi di sanzione in cui la persona rimanga all'interno della società. Questo è un vecchio dibattito, che è molto vecchio quanto il carcere, che però non si è mai realizzato, se non qualche tentativo quella ha fatto. Questo è il dibattito che c'è attualmente in carcere. Non è un granché, poi vedremo qualche altro punto più grosso verso la fine. E diceva pure quello che dice Mauro Palma, anche il problema del lavoro. Il lavoro, che come abbiamo detto più volte, in carcere al 99% non serve a produrre merci come nelle fabbriche, nei posti di lavoro, e quindi a fare profitti a chi mette in piedi attività lavorative in carcere. Anche quello, ma quella è la parte minimale. Il lavoro in carcere, secondo l'impianto con cui è nato il carcere, e questo ve l'abbiamo ripetuto più volte, il carcere nasce proprio per addestrare o ammaestrare o disciplinare, usate il verbo che volete, le persone al lavoro, cioè per far capire alle persone che la loro vita sarà una vita di lavoro, quindi devono accettare la logica del lavoro, i ritmi del lavoro, l'organizzazione del lavoro, la disciplina, perché devi obbedire a degli ordini. Il lavoro non è un lavoro che scegli tu e fai come ti pare, ma è un lavoro subalterno, subordinato, sottomesso a qualcuno. Ecco, a questo ammaestramento serve il carcere. Quindi lui dice che il carcere chiaramente ha bisogno di un lavoro, anche inutile, anche che non produce niente, però un lavoro purché sia ci deve essere, e questo è quello che in effetti è stato realizzato in molte situazioni carcerarie. Lavori che non producono nulla, che a volte sono anche in remissione, però permettono al detenuto di cominciare a fare i conti con l'attività lavorativa che a volte ha rifiutato. Questo valeva una volta, quando appunto il carcere nasce perché le persone che facevano prima altri lavori, che so, il contadino, l'agricoltore, il pastore, il pescatore, vennero espropriati della loro attività lavorativa e buttati in questi opifici che cominciavano a nascere, parliamo del 600, 700, 800, poi in tutta Europa, da qualche parte prima, da qualche paese dopo. E però non gradivano quella reclusione, anche quella reclusione, perché stare 12 ore in una fabbrica chiusa, puzzolente, è orribile, non era piacevole, quindi molti scappavano, e qui tutto il discorso andavano al vagabondaggio, che fu represso ferocemente, e quindi il carcere nasce proprio per dire: io ti faccio capire che il tuo destino, il tuo futuro, il tuo presente, il tuo futuro e quello della tua discendenza sarà quello del lavoro, quindi abituati alla disciplina del lavoro. E quindi il carcere nasce legato al lavoro, per cui il lavoro c'è sempre stato in carcere, finto, a volte ripetitivo, a volte inutile, però permetteva appunto di seguire i ritmi. E d'altronde, se voi vedete chi è stato in carcere, o comunque chi ha avuto conoscenza di qualche persona che ha frequentato quegli alberghi, sa che i ritmi in carcere sono gli stessi della fabbrica. Inutili, perché non è necessario che in carcere ti svegliano alle 6, però ti svegliano alle 6, e quindi comincia tutte quelle cose velocissime, la colazione molto presto, tutte quelle cose che poi non servono a niente, perché poi, finita tutta questa attività della prima parte della mattina, il detenuto spesso si butta in branda e aspetta che passano le ore, e quindi che passi la propria vita. Però quel ritmo lì serviva a riprodurre il ritmo di fabbrica, per dire: guarda che sono questi i ritmi che ti devi imparare a rispettare. E quindi, vabbè, e questo era un po' un ragionamento su questo dibattito. Non è un granché questo dibattito sul carcere da parte di queste persone, che sono quelle obiettivamente più vicine alla condizione dei detenuti. Noi avremmo il piacere che questo dibattito si spostasse un po' più avanti. What happened to Zeke? He's dead on a Jones, man. How about Dave? OD'd on alcohol. Well, what's Rock doing? Oh, he's living with his mother. How about James? He's gone straight. A proposito di lavoro, appunto, quando ho letto il titolo di questa notizia, che appunto di questa settimana, di qualche giorno fa, al carcere di Nuoro, Baddo e Carros, famoso carcere, le poste sono entrate in carcere, le poste, no? Allora uno dice: beh, probabilmente avranno messo un call center, quindi i detenuti lavorano. Invece no, pensate un po', presso la casa circondariale di Baddo e Carros a Nuoro, in Sardegna, è partito un progetto formativo culturale di filatelia nelle carceri. Pensate a che pensano, pensate voi a che pensano. As Allora, invece adesso, scusate, intanto dobbiamo tagliare la musica che va tra una chiacchierata e l'altra. Questa qui, il Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, su proposta di un deputato italiano, Manlio Di Stefano, ha emesso una direttiva abbastanza interessante, quella che i minori non accompagnati nei flussi migratori non devono essere detenuti. Questo perché è successo che appunto in questi flussi migratori, cui da qualche anno avvengono in grandi quantità in Europa, sulle coste o anche a volte per terra, succede che dei minori non accompagnati che arrivano in Europa, poiché non in tutti i paesi europei esiste una normativa che non permette la detenzione delle persone minori, dei ragazzi e delle ragazze di minore età, ad accoglierli in maniera non detenuta, e allora hanno fatto questa l'Assemblea parlamentare, così ora raccogliendo questa proposta ha fatto questa indicazione, questa delibera. In realtà, perché il dato è che in questi flussi migratori sono contati tantissimi minori scomparsi nel nulla, partiti e non arrivati, non si contano nemmeno tra i morti, quindi che fine hanno fatto? E allora per allertare, poi non sappiamo se verrà raccolta dai vari paesi, per allertare i vari paesi, le polizie dei vari paesi tenere particolare attenzione ai minori non accompagnati, quindi che arrivano soli oppure che i genitori sono morti in questi viaggi allucinanti, ebbene non devono essere detenuti, qualunque sospetto si abbia su di loro. Tra l'altro non vanno trattati come gli adulti, vanno prelevati, messi in case d'accoglienza, in situazioni di diversa socialità, in cui possono sicuramente riconquistare la propria minima dimensione di ragazzo minore. Quindi questo problema è molto grave, perlomeno i dati sono terribili, molti ragazzi e ragazze probabilmente in qualche caso c'è il sospetto che vengano rapiti oppure fatti scomparire o addirittura in qualche paese addirittura detenuti, e questa cosa non può esserci. Quindi c'è questa presa di posizione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per tutti i paesi europei di evitare un trattamento diverso ai minori non accompagnati, che non riguardi la detenzione, non riguardi nemmeno l'immissione in questi nei CIE, nei luoghi dove vengono ammassati per poi essere dislocati oppure rimpatriati. Devono essere accolti in maniera diversa e rispettando la loro identità. Questo è un punto abbastanza importante. E parlando di ragazzi e bambini, ne abbiamo accennato l'altra volta, sapete che in carcere ci sono, qui nel carcere italiane, una cinquantina di bambini e bambine, questa volta molto piccoli, qui parliamo di proprio appena nati, che stanno da 0 a 3 anni. Ci sono perché le madri che li hanno partoriti e sono in carcere e non possono godere per vari motivi degli arresti domiciliari, o perché sono recidivi o perché hanno il reato di cui sono queste madri sono incolpate, riguardano la non concessione delle misure alternative, o perché hanno un domicilio che non è controllabile dalle forze di polizia. Per esempio le madri che vivono nei campi rom, se vanno in carcere e hanno un bambino, possono partorire in carcere oppure appena partorito, non possono chiedere gli arresti domiciliari nel campo rom, perché le forze di polizia dicono che il campo rom non è controllabile come un appartamento. Questo per noi lo dice. Allora, e questa cosa fa strillare da tempo tutti quanti, quelli che ce li tengono e strillano chissà perché per salvarsi la coscienza, oppure le persone che dicono è una vergogna che uno Stato che si dice democratico, altri, tutti gli altri aggettivi stupidi che si attribuiscono a questa Repubblica, tenga in carcere dei bambini e delle bambine da 0 a 3 anni. Bene, nel carcere di Rebibbia, che è uno dei punti dove ce ne stanno tantissimi, erano mi pare da 16 a 18, insomma un bel numero, si era stata messa insieme un'associazione a Roma Insieme, così chiamata, che l'aveva prodotta Leda Colombini, una donna che si occupava appunto del problema dei bambini e delle bambine detenute. Questa associazione andava a prendere la mattina in questi reparti dove stanno le madri con i bambini piccoli a Rebibbia i bambini, li portava all'asilo nido fuori o li portava insomma fuori la giornata e poi li riportava il pomeriggio nelle proprie celle con le madri, in modo che avevano una parte della giornata insieme alle altre, ai loro coetanei, e a fare cose insomma non carcerarie perlomeno. Ecco, questa da tanto tempo, questa associazione Roma Insieme adesso ha preso il nome, siccome è morta Leda Colombini, qualche anno fa si chiama Roma Insieme trattino Leda Colombini, e questa attività ovviamente fatta col non costava nulla alla finanze pubbliche, perché era fatta da volontarie, donne volontarie che si prestavano a fare queste cose. Avevano però bisogno di una cosa, di un pulmino, una macchina, un pezzo di ferro con quattro ruote che portasse questi ragazzini o ragazzine dal carcere di Rebibbia, che sapete è abbastanza fuori mano, all'asilo nido più vicino, un posto, e poi li riportassi indietro. Quindi serviva un pulmino e una persona autista. Spese eccezionali, no, non pensiamo, miliardi di deficit, no, chiaramente. Invece, allora, però pare che questo impegno così gravoso, qualche migliaia di euro in un anno, non di più, il Comune di Roma non se lo possono permettere, chissà perché, e quindi hanno tolto il pulmino e l'autista, e dunque questi ragazzini rimangono dentro, perché come li puoi portare fuori, dare Bibbia per raggiungere l'asilo nido o questi altri posti, luoghi dove devono andare, non li possono andare a piedi, Rebibbia è molto distante dal resto della città e quindi è bloccato questa attività, che era abbastanza interessante, in attesa che le autorità parlamentari, si discute tanto di Parlamento a volte, ma qualcuno mi dovrebbe spiegare, e aspetto sempre, come mai tutte le persone che sono avvicendate nei parlamenti, Senato e Repubblica, che erano due, ma anche fossero state tre, oppure uno solo, o 15, cioè la classe dirigente italiana che è seduta nei parlamenti degli ultimi anni non è riuscita a trovare una gabola, un'intuizione per far uscire i bambini. Qui parliamo, non chiediamo di far uscire gli ergastolani, chi c'ha 30 anni di galera, anche quelli dovrebbero uscire, ma adesso qui si parla di far uscire dei bambini e delle bambine che hanno da 0 a 3 anni. Che reati possono aver commesso? Soltanto quello di essere figli di una persona, di una donna che è stata poi inquisita e condannata. E insomma, è sospeso perché non c'hanno i soldi di questo furgoncino. Se avessero fatto un'iniziativa, se il Comune avesse fatto un'iniziativa, se fossero un po' meno stupidi, non mi azzardo a dire più intelligenti, perché è un aggettivo che non si può usare per chi e per gli amministratori di questa città, perlomeno fino adesso non si può usare, un po' meno stupidi, avrebbero potuto dire: chiediamo a tutti i cittadini di mettere un euro a testa per poter finanziare questa cosa. I soldi sarebbero venuti, perché bastava un euro a testa dei cittadini e avrebbero fatto un salvadanaio utile a continuare questo lavoro. E invece niente, tutto bloccato. 30.000 euro l'anno costa il servizio, 30.000 euro l'anno, che è molto meno di quanto prende per esempio una persona che stanno lì nell'amministrazione comunale. 30.000 euro l'anno servivano e servono ancora per finanziare questo progetto. 30.000 euro l'anno, qui e quando sentiamo le cifre di deficit, si sta sull'onda di decine di milioni o addirittura miliardi. Qui sono 30.000 euro l'anno, quisquiglie, direbbe qualcuno. E invece è per il secondo anno consecutivo che è tutto bloccato, perché il servizio di trasporto di questi bambini nei 5 giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, no, perché sabato e domenica è tutto bloccato, perché nel carcere è tutto bloccato, si blocca tutto, gli asili esterni alla zona Tiburtina dove sta Repibbia, non si possono trasportare questi ragazzi perché non c'è questo furgoncino e l'autista. Volete commentare, commentate la voi, io non lo faccio, altrimenti vengono fuori delle brutte parole che non è il caso di usare per radio. Allora, veniamo adesso a un punto dolens, come si dice, una questione che grava pesantemente, anzi è attiva purtroppo da tempo ormai, e pare è abbastanza chiaro che cresce sempre di più, è il discorso delle misure amministrative preventive messe nei confronti di quegli attivisti, compagni e compagne che operano nei movimenti sociali, nei movimenti reali, qualunque si siano. Qui a Roma è successo che qualche giorno fa alcuni compagni molto attivi, tra i più attivi all'interno del movimento di lotta per la casa, gli è stata affibbiata questa misura amministrativa di controllo sociale. Hanno avuto un anno di obbligo di dimora, cioè non possono muoversi dal comune di residenza, devono rispettare degli obblighi di orario, cioè non uscire prima di una certa ora, rientrare non dopo una certa ora nel proprio domicilio, quindi una sorta di restrizione di libertà, soprattutto restrizione di libertà di movimento e di libertà quindi di vedere persone, frequentare luoghi e fare appunto attività sociale di qualunque tipo e anche politica. Questo fa capo tutto questo bagaglio di sanzioni amministrative preventive, fanno capo a una parola, ad un concetto abbastanza fumoso ancora, che è quello della pericolosità sociale. Ne abbiamo parlato varie volte perché ci siamo resi conto da qualche anno a questa parte, da diversi anni a questa parte, che questa figura giuridica, appunto la pericolosità sociale, stava prendendo sempre più piede all'interno della repressione che lo Stato, le istituzioni attuano nei confronti dei movimenti di lotta. E difatti più di un anno abbiamo visto per esempio pioverne tantissimi nei confronti degli attivisti del movimento No TAV, quello su in Valsusa. Tantissimi ne hanno avuti, non solo può essere le firme, il divieto di dimora, tantissimi, no? Il divieto di andare in certi comuni oppure di non uscire dal proprio comune, di recarsi in certe ore in certi posti, cioè l'impossibilità di muoversi e di fare quello che facevano prima. Questo è un discorso molto complesso e fumoso, perché la pericolosità sociale viene attribuita da parte della polizia, non è un meccanismo che passa come gli altri reati attraverso la denuncia, il pubblico ministero che prepara tutta la cosa, poi c'è il primo grado di processo, il secondo grado, cioè non passa attraverso tutti, ma viene semplicemente proposta dalla questura, dall'organo di polizia, poi viene soltanto convalidata, intanto opera già dal giorno dopo, viene data oggi e da domani questa persona deve rispettare quegli obblighi, e poi viene convalidata dal tribunale, però successivamente, intanto già mentre è già in corso, e comunque quella è una convalida oppure una non convalida di carattere appunto abbastanza veloce, non rispetta tutti i canoni della procedura penale. Che cos'è questa categoria? Dunque, la storia recente, mica tanto recente, cioè la storia della giurisprudenza italiana ci dice che è comparsa nel 1930 nel codice Rocco, quello che si chiama codice Rocco perché Alfredo Rocco, quello che l'ha esteso formalmente anche insieme ad altri in epoca fascista, ha predisposto tra le varie forme, diciamo, di limitazione di libertà questa della pericolosità sociale. E poi nel dopoguerra non è stata abrogata, cioè è rimasta lì, è stata però ignorata, cioè per molti decenni, nonostante che la repressione in questo paese nel dopoguerra, negli anni 50, 60, 70 abbia imperversato contro i movimenti sociali che erano molto ricchi, attivi, veloci, forti, però è questa categoria è rimasta abbastanza ignorata, non utilizzata molto. Erano altre riforme molto pesanti, no? Però insomma questa non veniva usata, è comparsa da poco, da qualche anno, diciamo dall'inizio di questo nuovo secolo, però ecco, e qui c'è una prima riflessione da fare. Molti dappertutto, no? tra i compagni e le compagne, gli attivisti, i democratici, chiunque discute di questa categoria, la pericolosità sociale, molti la criticano, anche semplicemente democratici. Perché? Perché riguarda il profilo sociale di una persona, non un reato, non bisogna aver fatto un reato per cadere sotto i colpi della pericolosità sociale, anche se non hai fatto nulla, altrimenti appunto ti becchi la denuncia, il processo, eccetera, eccetera. Se hai violato la legge, se hai fatto un reato, ma semplicemente viene costruita su un profilo della persona. Questa persona si muove, vede altra gente, frequenta assemblee, manifestazioni, cioè fa cose che non ricadono sotto la sanzione penale, non fa cose vietate dalla legge, però fa cose che insomma si fa vedere che è abbastanza oppositivo, antagonista al sistema esistente, e quindi prima o poi potrà fare anche dei grossi reati. Allora noi lo blocchiamo subito. Questo è il ragionamento. Un ragionamento che stride, lo può capire chiunque, con l'attuale, diciamo, struttura giuridica di questo paese, di tutti i paesi cosiddetti democratici, in cui recitavano appunto le massime del Settecento, quando appunto gli ordinamenti giuridici presero questa forma: nessuno è punibile se non viene individuato un titolo di reato, cioè soltanto se tu hai fatto una cosa e confermata quella cosa puoi essere perseguito, punibile, altrimenti no, non per quello che sei ma per quello che fai, si diceva. Qui invece si ribalta il senso: tu vieni punito per quello che sei, non per quello che fai. Per quello che fai c'è già il codice penale che opera, eccetera, ma io, dice la polizia, ti punisco, cioè ti blocco, impedisco i tuoi movimenti, la libertà di movimento, di muoverti, di andare, di partecipare ad attività, eccetera, eccetera, perché ritengo che tu hai un profilo inquietante, termini molto così sfuggenti, no? Hai un profilo che può un domani diventare pericoloso per la società. Non per questo o quello, non è che vai a rubare a tizio, vai a fare, no, è per la società, per l'ordine sociale. Questo mette in, cioè fa venire fuori qual è il vero, come dire, la vera fisionomia dell'ordinamento giuridico. Non tanto regolare un comportamento o tutelare questa o quella, la proprietà privata di questo o questo o quello, no, quello sì pure, ma sostanzialmente di mantenere l'ordine esistente e riprodurlo così com'è. Tant'è vero che perfino la Corte Costituzionale italiana nel 2002, con sentenza numero 354, nel 2002 scrisse queste cose a proposito, perché appunto erano i primi anni, ho detto nel nuovo secolo, che cominciavano a essere rinvigorita questa cosa. Disse queste cose, le leggo: il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti, che derivano da precedente compimento di atti non del tutto estranei al fatto reato, cioè, capite? Introducendo così una responsabilità penale d'autore, in aperta violazione del principio di offensività. Che vuol dire con queste parole, come le parole tecniche? Vuol dire non va bene, cioè questa vostra concezione di pericolosità sociale viola il rispetto dei diritti della persona, e è completamente illegittimo pensare di valutare la persona anche in base ai reati che ha fatto precedentemente. Se le ha fatti, è stata processata, si è appagato, ha pagato, la cosa finisce lì. Non possiamo produrre dei profili delle persone, questo dice la Corte Costituzionale nel 2002, perché non ha senso, è fuori dalla logica del rispetto dei diritti inviolabili della persona, che pure sono la base, ci dicono, così ci facevano studi a scuola, sono la base dei diritti moderni. Come se ci fosse una responsabilità d'autore, cioè come quell'autore, cioè quella persona, Pinco Pallino, è dedita a fare dei reati, e chi lo può prevedere? Che c'è la palla di vetro, no? Quindi aveva creato. Ovviamente la cosa è andata avanti lo stesso, perché è una tendenza inarrestabile, questa inarrestabile dal punto di vista loro, cioè di coloro che hanno in mano le norme giuridiche, e quindi da lì nacque tutto un dibattito. Venne fuori il fatto: chi ha inventato questa categoria? Il codice Rocco, quindi i fascisti, quindi no, dagli al fascismo. Molti proposero, per cercare di togliersi di addosso questa, così come il reato di devastazione e saccheggio, anch'esso predisposto nel codice Rocco fascista, dice: aboliamo il codice fascista Rocco, così leviamo queste cose qui. Errore, gravissimo errore. Io capisco, siamo antifascisti, i fascisti ci fanno schifo, ci facevano schifo quelli di ieri, quelli di oggi e quelli di domani, ci faranno sempre ci faranno sempre schifo e li combatteremo sempre, ma non si possono dire le bugie. Nel codice Rocco, per una serie di motivi, perché Rocco intanto faceva parte della scuola giuridica classica, in cui c'era ancora che appunto una persona va condannata per quello che fa, non per quello che è, ma anche perché in epoca fascista, per altri motivi di carattere politico e sociale, non c'era un conflitto alto, non c'è stato solo negli ultimi anni quando è scoppiata la guerra, e quindi non aveva bisogno di utilizzare questa categoria. Tant'è vero che questa categoria nel codice Rocco, andatela a leggere se avete tempo, aveva riservato a questa una particolare, diciamo, come dire, un particolare utilizzo nelle persone già condannate per un reato, che avevano espiato la pena e che però nell'espiazione, per i contatti che avevano mantenuto, per il comportamento che avevano avuto in carcere, risultavano non del tutto rieducati, reinseriti, e quindi si metteva come misura di controllo successiva alla pena, alla condanna espiata, alcun periodo di controllo in più, perché appunto questa persona non ci sembrava che fosse stata il periodo trattamentale, così si chiama quello fatto in carcere, che dovrebbe appunto trattarti per rieducarti, non aveva funzionato, e quindi si introduce questa misura. Quindi, come vedete, molto limitative, tra l'altro da usare dopo un reato, cioè tu sei stato condannato per un reato, quindi sei già reo, colpevole di una cosa, certo espi quello che ti dà la sentenza e la condanna, però poi io organo di polizia metto un controllo di qualche tempo dopo all'espiazione della pena per vedere se tu sei rinsavito oppure no, ecco. Adesso, come vedete, si va ben oltre il codice Rocco, altro che abolizione del codice Rocco, bisogna abolire qualche altra cosa, perché dall'inizio del secolo la pericolosità sociale viene utilizzata a prescindere dai reati commessi, cioè su un profilo fatto da persone che non hanno mai incappato nella violazione della legge. Non c'è, per esempio, questi della Notav, è chiarissimo, sono persone che non hanno avuto un processo precedente, una condanna precedente, ma semplicemente a freddo persone incensurate a cui per la condotta sociale che hanno, politica e sociale che hanno, gli viene attribuito il ruolo di persona pericolosa socialmente. Cioè tu per quello che pensi, per le persone che incontri, per i luoghi che frequenti, sei pericoloso alla società. Questo è uno stravolgimento molto più a destra, ma di gran lunga, ma spaventosamente più a destra del codice Rocco. Non è per diminuire le colpe dei fascisti, ma quello che la verità va detta, anche se a volte è un po' amara ed è dura a digerire. In questo caso, così come i decreti Cossiga della fine degli anni 70 hanno peggiorato di gran lunga lo stesso codice Rocco, è il testo unico di pubblica sicurezza, è stato peggiorato. Il problema qual è? Molto semplice, perché lo Stato democratico repubblicano, come vi pare, si è trovato a dover fronteggiare dei movimenti antagonisti, rivoluzionari, non pacificabili, e quindi ha dovuto inasprire le stesse concezioni del codice Rocco. Questo per dire, poi aboliamo pure il codice Rocco, ma qui c'è da abolire qualche altra cosa, e sarebbe un obiettivo sbagliato, falso, perché i decreti Cossiga, ma la stessa legge reale, ma lo stesso appunto l'attuale pericolosità sociale va molto oltre il codice Rocco, quindi qui il problema è un po' più gravoso, bisogna fare i conti con la punibilità democratica, così si chiama oggi. Bene, torneremo su questo argomento perché è molto importante, spinoso, e sul quale non c'è ancora un'analisi precisa, c'è troppa confusione, gli slogan sbagliati, va bene, gli slogan, d'accordo, uno non pretende che siano diciamo perfetti al 100%, però attenzione, lo slogan può servire alla manifestazione, ma non è l'analisi, no, deve essere precisa. Quindi qui siamo molto oltre il codice Rocco, di gran lunga superiore, l'hanno scavalcato di gran lunga, hanno spostato l'alticella molto più in alto, quindi bisogna affrontare questo problema che si chiama così, la pericolosità sociale di oggi, che è fatta delle sanzioni amministrative superiori allo stesso codice penale. Bene, noi terminiamo qui la trasmissione di oggi perché siamo oltre le 16 di un minuto, soltanto un minuto abbiamo rubato. Tra l'altro l'abbiamo già detto durante, lo ripetiamo ancora oggi, la trasmissione che va in onda dopo questa, dopo la conta, cioè l'ingorgo, oggi non va in onda per difficoltà dei conduttori di raggiungere la radio, quindi andrà in onda la prossima settimana. Dunque noi quindi vi lasciamo, vi auguriamo buona libertà a tutti e tutte, ci sentiamo fra due mercoledì, se volete colloquiare, discutere con questa trasmissione c'è anche una mail, la mail è la conta, tutto attaccato, minuscolo, laconta@ondarossa.info. Ancora buona libertà a tutti e tutte.